Senta, io volevo essenzialmente esprimere un po' il mio disappunto sulla procedura un po' complessa. Io sono un intermediario, non un utente. Ah. In effetti devo notare che siamo stati lasciati un po' così allo sbaraglio con questa nuova procedura. Perché lei dice, insomma, gli utenti, magari la persona che vuole aprire l'impresa, legge dai giornali che può fare tutto in mezza giornata, certo, e certo, poi chiaramente arriva da così lei non è. E così non è, è vero. Perché comunque ci vuole la PEC, ci vuole la firma digitale. Infatti, quindi le difficoltà più grandi che ha riscontrato Giuseppe in qualità di intermediario sono state queste? Sicuramente, vabbè, già la PEC e la firma digitale già la si usa, però sicuramente una maggiore interfaccia con le camere di commercio, questa la devo osservare, questa mancanza. Giuseppe, adesso magari Pirazzini, sì, secondo lei dipende, non lo so, dalle aree di dalle camere di commercio più o meno attrezzate a queste novità, o da che cosa può dipendere? Anche secondo, non so, l'esperienza di Ferrara, per esempio, per gli intermediari c'è un po' di difficoltà rispetto alle promesse teoriche annunciate per i piccoli imprenditori, per i neo piccoli imprenditori? Ma guardi, soprattutto per gli intermediari, la gran parte del sistema camerale a livello nazionale ha organizzato momenti di formazione e informazione verso professionisti e associazioni di categorie. Qui a Ferrara, proprio nell'ultima quindicina di marzo, abbiamo fatto 3 incontri di un pomeriggio interi con circa 300-400 partecipanti e abbiamo spiegato la procedura. Poi la nostra società consortile Infocamere ha attivato anche canali di autoformazione con piattaforme di e-learning, dove se uno poi non ha tempo di partecipare alla formazione fisica può farlo senz'altro via internet, guardandosi un corso online che spiega come attivare Comunica. Quindi noi ci sentiamo di aver garantito al meglio delle nostre forze questa possibilità conoscitiva e informativa che in questa prima fase è dedicata soprattutto agli intermediari. Certo, giustamente, perché chiaramente per quanto uno si possa armare di buona volontà individualmente, io ritengo che sia sempre bene non partire almeno completamente allo sbaraglio.